America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, beh, la settimana scorsa devo dire è stata una delle più turbolente dal punto di vista dell'andamento di borsa, volatilità estrema. C'è stato un leggero recupero nel fine settimana, un minimo di stabilizzazione, e vedremo come le cose andranno questa settimana in America. C'è molta attenzione soprattutto per quello che potrebbe esprimere la Federal Reserve dopo dichiarazioni di James Bullard, presidente della Federal Reserve di St. Louis, che diceva come la Fed sarebbe stata vigile e attenta. Una dichiarazione che ha colpito, perché Bullard è noto per essere invece un falcone, cioè che vuole una politica monetaria più restrittiva prima, senza dover aspettare molto più in là. Per cui vedremo come andrà questa settimana, ma vorrei raccontarvi oggi una storia che mi ha molto colpito e che coincide con un evento, come dire, di cronaca, e cioè l'apertura oggi 20 ottobre al Metropolitan Museum, il più importante museo del mondo, di una mostra dedicata al cubismo. Questa è una mostra molto speciale sotto molti punti di vista. Perché? Perché intanto chi verrà a New York potrà vedere una collezione che fino ad oggi era rimasta nell'appartamento privato del suo proprietario, Leonard Loder. Leonard Loder, il presidente emerito di Estée Lauder, un uomo, devo dire, straordinario, un vero uomo rinascimentale. Ebbene, Leonard Loder ha deciso di donare questa sua collezione al Metropolitan Museum. Sentiamo il parere di una delle curatrici, anzi della più importante curatrice di questa mostra, Emily Brown. At a time when the print media is under pressure from many fronts, we had the remarkable opportunity to create a book of extraordinary substance and quality, the Leonard A. Lauder Cubist Collection. This is a history of cubism and also a history of Mr. Lauder's collecting. Ecco, Emily Brown è la curatrice principale di questa mostra e parla in questo momento, ve l'ho voluta far ascoltare in questo particolare momento, perché parla del libro, del volume che è legato a questa mostra, ed è un volume che sarà studiato dagli storici. Non era mai stato preparato un volume di questo genere, e lei osserva, in un momento in cui la stampa è sotto pressione su varie fronti, abbiamo avuto la straordinaria opportunità di creare questo libro eccezionale sia per qualità che per sostanza, del Leonard Lauder Cubism Collection. È una storia del cubismo, ma è anche una storia della collezione Lauder. Com'è organizzata questa collezione? 81 opere. 81 opere di Picasso, di Braque, di Gris e di Léger, che sono i grandi maestri del cubismo. E la collezione finisce nel 1924, quindi è un periodo molto definito e molto particolare. E quando ci fu la notizia della donazione, le reazioni furono straordinarie, perché questa donazione trasformava il Metropolitan Museum in uno dei grandi musei di arte moderna. Il Metropolitan ha moltissime opere dell'arte moderna, dell'arte contemporanea, ma non aveva una collezione di questo genere. Quindi improvvisamente fa un balzo in avanti rispetto al MoMA, il Museum of Modern Art. Ma sentiamo direttamente da Leonard Lauder, che ho visto l'altra mattina, perché ha deciso di fare questa donazione e perché al Metropolitan Museum. Sentiamolo. Cubism is the entrance to the 20th century and all that followed it in art. I am a historian amateur, however, and to me, cubism spoke to me in a way that no other period did. Ecco, vi traduco per intero quello che dice in questo scorcio, poi vi darò un riassunto del resto, perché Lauder dice: il cubismo è l'ingresso nel XX secolo, è in tutto quello che è poi seguito nell'arte. Questo è quello che mi ha affascinato del cubismo. Spesso mi è stato chiesto: ma perché il cubismo? Perché mi comunicava qualcosa, era interessante, era complicato, e ogni opera ha una chiave di lettura, in ogni opera c'è qualcosa da imparare. Più andavo avanti, più mi rendevo conto che avevo una grande opportunità, quella di creare una collezione non solo per me, da appendere alle pareti, mostrare agli amici, ma una collezione per un grande museo. E così ho cominciato a raccogliere opere con dei parametri molto precisi. Ogni volta che dovevo acquistare un quadro mi domandavo: ma questo quadro poi potrebbe essere ospitato in uno dei più grandi musei come opera permanente? E se questo quadro, come dire, passava questo test, passava questo esame, allora Leonard Loder lo comprava. Se invece non passava questo test, allora ne faceva a meno. Ed è sempre stato consigliato lungo i decenni proprio da Emily Brown, che insegna storia dell'arte a Hunter College. Ecco, ma c'è qualcos'altro che ha detto Loder? Ha spiegato il perché della sua donazione? Perché al Metropolitan Museum e perché a New York? Al Metropolitan ha detto perché è il più grande museo del mondo e io spero che con questa mia piccola cosa possa renderlo ancora più grande. A New York, dice, perché New York è la mia città, è la città dove sono nato, dove sono nati i miei figli, dove sono nati i miei nipoti, dove sono nati i miei genitori, ed è la città a cui devo tutto, è la città dove ho vissuto, è la città dove ho potuto partire per un'avventura imprenditoriale che mi ha dato enormi soddisfazioni e dunque, dice, mi sembrava molto giusto restituire qualche cosa a questa città. Ecco, la grande chiave della filantropia, la chiave della restituzione a un museo che manterrà questa collezione intatta, questo è il mandato, e soprattutto un regalo a tutti coloro che d'ora in avanti potranno visitare questa mostra. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo fatto un balzo all'indietro nel tempo. Pensate che il cubismo ha poi contagiato i futuristi. In un articolo uscito sul Fiorentino i critici riportano di un quadro particolare di Braque e i futuristi raccolgono la sfida e dicono bene, dobbiamo assolutamente rispondere alla sfida intellettuale dei cugini francesi. Dunque un balzo nel passato, addirittura prima che ci fosse la prima guerra mondiale di cui celebriamo il centenario adesso, e così io vorrei fare anch'io un balzo nel passato con le canzoni, come canzone del giorno. Direi di andare un po' più in là dell'inizio del secolo, ma al 1962, oltre 50 anni fa, quando in America spopolava dei Four Seasons, Big Girls Don't Cry. New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.